Buongiorno, sono Mario Sabatino, questo è il mio podcast, oggi è il 1 agosto 2010 e vi parlerò del progetto Edinea. Il progetto Edinea è un esperimento editoriale. Attraverso il sito che ho appositamente creato, il gruppo e le wave associate, pubblicherò il codice sorgente, l'espressione è quanto mai appropriata, dei miei scritti. Ho predisposto una bozza di indice del mio prossimo libro su Twitter, Twitter per giuristi, e l'ho messa a disposizione del pubblico affinché voi lettore possiate inviarmi un feedback sotto forma di suggerimenti, correzioni, proposte, idee, eccetera. Lo stesso farò con i capitoli man mano che saranno pronti. Il motto del progetto Edinea è creare, condividere, pubblicare. In un certo senso, la logica dell'open source e dell'open content riveduta è corretta. Edinea potrebbe rivelarsi come nuovo modello editoriale che vede al centro la figura dell'autore e del suo pubblico di lettori, senza intermediari e condizionamenti. Vi invito quindi a visitare il sito del progetto e ad iscrivervi al gruppo Edinea, che ho appositamente creato su Google Groups. Gli iscritti al gruppo potranno scrivere nella wave del progetto. La wave è pubblica, pertanto tutti gli utenti di Google Wave potranno leggerla, ma solo gli iscritti al gruppo di Nea potranno modificarla. La bozza dei testi sarà da me pubblicata all'interno della wave. Nella wave sarà possibile interagire in audio, video ed ovviamente attraverso la parola scritta. Il libro e quelli che lo seguiranno saranno distribuiti con licenza Creative Commons e, oltre ad essere liberamente e gratuitamente scaricabili, saranno messi in vendita sia nel formato ebook che in quello cartaceo. Attraverso il servizio fornito da Indiegogo potrete acquistare in prevendita una copia dei libri in formato elettronico e finanziare il mio lavoro. Due parole infine su Google Wave. Uso Google Wave perché lo considero uno strumento potente ed un servizio innovativo, come credo sia innovativa l'idea di Edinea. Eccovi il primo buon motivo per iniziare ad usarlo. Bene, vi invito al collegarvi al sito del progetto Edinea all'indirizzo www.edinea.net e a seguire il mio lavoro. Vi ringrazio e vi saluto.